Friuli nel mondo, 90ª trasmissione dedicata agli emigrati. Nel solco della tradizione, Luigi Garzoni da Dorgnano. Il nome di Luigi Garzoni di Adorgnano è indissolubilmente legato al folklore musicale friulano. Nato 71 anni fa ad Adorgnano di Tricesimo, il maestro, per la sua profonda conoscenza dell'ambiente carnico e friulano, seppe scoprire le scaturigini del genuino canto etnico al quale sempre si ispirò e tuttora si ispira nella sua opera di compositore, tanto che le sue creazioni, che assommano a tutt'oggi ad oltre 600, appaiono spesso in estate su un antico ceppo tradizionale e come tali vengono riprese e fatte oggetto di elaborazione popolare. Non è facile compendiare, nel giro di poche frasi, 50 anni di attività particolarmente intensa e multiforme. Valgano a far risaltare la schietta figura dell'artista queste stupende melodie permeate di una profonda e sincera friulanità. Il coro di Luigi Garzoni di Adorgnano eseguirà ora la stupenda villotta O Ciampanis de Sabi de Sere. Yeah. Ed ecco un'altra villotta, in Chesere, che tutti i friulani, giovani e non più giovani, in Friuli e all'estero, cantano con tanta nostalgia. Che dire poi, in questa stupenda stagione, della soave, penetrante dolcezza di questa elegia alla primavera, la Viarte? E di quest'altro delicato componimento, Cisilute? Ti vuoi bene, ora dati, Questa breve rassegna di composizioni di Garzoni, che il coro, i cantori del Friuli, diretto dall'autore, ha così bene interpretate, termina con l'esecuzione della villotta Nus Riquarde. Così come noi intendiamo chiudere questo rapido profilo del maestro con la saffica che Armando Molinaris ha voluto di recente dedicargli. Canta ancora, per te, per noi, per i giorni che pur verranno, per la nostra gente che parte e non conoscerà i ritorni, ma da lungi ti sente. Canta, e il tuo nome si unirà alla schiera di chi onorò la dolce terra cui ride l'ondeggiare della riviera e che l'Alpe rinserra. Canta, e in ogni nota incisa, con anelo cuore, con fede, con sincerità, sia per te un'ala tesa verso il cielo dell'immortalità. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 90ª trasmissione a cura di Ermete Pellizzari. Ha cantato il coro I Cantori del Friuli, diretto dal maestro Luigi Garzoni di Adorniano.